Effetto neve. Effetto neve con Massimo Di Scienza. E allora buon pomeriggio, buona domenica amici di Radio 24, abbiamo portato un po' di aria di neve anche qui al BIT, la borsa del turismo, la grande fiera dedicata al turismo che si conclude oggi, proprio oggi pomeriggio qui in fiera Milano Ropero. Buon pomeriggio a tutti da Massimo Di Scienza e da tutta la squadra di Effetto Neve, in regia qui al BIT Paolo Corleoni, Valeria Bernardi nella nostra sede centrale, in redazione Giorgio De Luca e Claudia Carusi. Saremo insieme fino alle 17, come diceva Carlo, per raccontare anche, ma non solo, della sesta medaglia che è arrivata per l'Italia oggi ai campionati mondiali di Garmisch. Anche a Garmisch oggi si conclude la kermesse, che è stata a dir poco felice, fortunata per i colori azzurri, per la spedizione italiana. È arrivata la medaglia di argento nello slalom speciale maschile, l'ha conquistata Manfred Melg 4 anni dopo l'argento di Ore, e ce la racconta in diretta da Garmisch l'inviata di Sky Sport per quanto riguarda lo sci, la nostra prima firma, Elisa Calcamonte Muggi. Buon pomeriggio Elisa, eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Beh, siamo tutti felici e contenti, inutile nasconderlo, un mondiale così non se lo aspettava nessuno. Ci eravamo sentiti domenica scorsa già felici per tutto quanto raccolto da Innerhofer, poi sono arrivate le altre medaglie e adesso la gioia più bella, quella di Manfred Möhl, che comunque è riuscito a salire sul podio con questo bronzo bellissimo. Lui al traguardo non era molto contento perché dopo la prima manche era secondo dietro al francese Grange e al terzo posto c'era lo svedese Mirer. Poi nella seconda manche è stato molto difficile rimanere fra i migliori perché la pista si è deteriorata, per cui Manfred, quando è arrivato al traguardo e ha visto che era secondo, ha storto un po' il naso, pensava di aver fatto davvero male, invece al contrario è riuscito a difendere. Lui voleva andare alla caccia dell'oro, ma è riuscito comunque a difendere il podio e la medaglia, chiudendo poi al terzo posto, perché il francese Grange è stato poi l'unico che è riuscito a mantenere la posizione di primo in classifica, come era successo nella prima manche, mentre un po' tutti gli altri risultati si sono ribaltati rispetto a quanto accaduto nella prima manche. Elisa, noi abbiamo visto la gara in televisione, tu eri lì a bordo pista e puoi darci sicuramente un quadro più efficace rispetto a quello che potremmo dare noi, ma la neve che c'era oggi a Garmisch era davvero, come dire, imbarazzante. Si può chiamare neve, diciamo, quella che specie le temperature qui non sono certo quelle, non sono state in queste due settimane quelle che ci si aspetta durante l'inverno. È stato un mondiale primaverile, questo sicuramente, molto vicino forse alle condizioni che lo scorso anno ci sono state durante l'Olimpiade. E anch'io guardando la gara ero un po' contrariata rispetto a quanto succedeva in pista, però poi parlando alla fine della gara col tecnico Jacques Tollier, che è l'allenatore degli slalomisti, lui ha detto: guardate che non era così orribile come sembrava che fosse. E anche la prima manche effettivamente, per esempio il nostro Giuliano Razzoli, che poi è uscito nella seconda ed era undicesimo dopo la prima manche, non era riuscito lui a interpretare bene, ma secondo il tecnico Tollier comunque la pista ha tenuto e i valori poi rispecchiano un po' quelli che sono i valori effettivi dei migliori slalomisti al mondo. Quindi forse è stata più una sensazione nostra, bisognava adattarsi, bisognava effettivamente sciare in modo diverso magari rispetto a quando si trova il ripido e il ghiaccio. Invece qui la neve era morbida, anche lo stesso Razzoli ha detto: sono uscito perché mi sono inclinato, io so che non devo inclinarmi troppo sennò rischio di uscire, però era l'unico modo per affrontare questo tipo di neve e questo pendio. Quindi forse diciamo che era diverso a quello che ci si aspetta di solito nelle gare classiche di Coppa del Mondo, il ripido, il duro, il ghiacciato, ma a detta di un esperto come Tollier è tutto normale. Ci torniamo su Razzoli dopo perché l'argomento è interessante e merita un approfondimento. Manfred Mölg, questa stagione come era andato nelle gare precedenti, e poi appunto ricordiamo la capacità di confermarsi 4 anni dopo quello splendido argento di Ore. Manfred Mölg, diciamo che lui dopo l'argento di Ore, oggi proprio gli abbiamo chiesto il confronto fra quello che era stata quella medaglia e quella che è la medaglia di oggi, lui ha detto: beh, è completamente diverso, pensate che a Ore io non dovevo neanche partire, lui aveva un mal di schiena fortissimo nel 2007 e si pensava che fra la prima e la seconda manche potesse decidere di non partire, quindi quel successo è arrivato proprio all'improvviso, non pensava nemmeno lui di poter arrivare a medaglia. Oggi invece forse quello di Manfred Mölg è un po' un riscatto, un percorso difficile il suo, perché dopo aver vinto la Coppa del Mondo di slalom lui ha deciso di cambiare attrezzatura, ha fatto fatica ad adattarsi, è ritornato sui suoi passi l'anno successivo, ha ricominciato a ritrovare buone sensazioni sull'ultimamente, il gigante qui del mondiale non l'aveva visto bene perché ha finito la gara in 17esima posizione, molto distante dai migliori, quindi era anche giù di morale perché diceva di allenamento di trovarsi molto bene, però di non riuscire poi in gara a dimostrare quello che è il suo valore reale. Oggi forse finalmente è un Manfred ritrovato dopo un cammino abbastanza difficile per ritornare ad essere fra i migliori. Infatti ha detto al traguardo: finalmente in slalom ci sono, devo ancora lavorare in gigante. Poi lui appunto un paio di anni fa pensava addirittura di puntare alla polivalenza e io oggi gli ho chiesto: ma quindi adesso che ti sei ritrovato in slalom e piano piano tornerai anche in gigante, pensi di nuovo di pensare anche ad altre discipline? E lui ha detto: ma piano piano vorrei tornare in combinata. Quindi forse anche questa medaglia per lui è un po' un premio che ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi ultimi due anni per ritornare quello che era nel 2007 e poi nel 2008. Argomento Razzoli che vogliamo approfondire con te, Elisa, perché dopo l'exploit dello scorso anno a Vancouver, dopo quella splendida medaglia, ci si aspettava una stagione indubbiamente diversa. Adesso chiaramente possiamo trovare tutte le motivazioni, tutte le spiegazioni, anche le giustificazioni ai risultati di quest'anno che sono stati chiaramente al di sotto delle attese. Innanzitutto vogliamo capire, tu che lo hai visto, immaginiamo lo hai sentito anche negli ultimi minuti, come l'hai trovato anche dal punto di vista umano, perché immaginiamo la delusione possa essere fortissima, e poi quali appunto sono secondo te le motivazioni che hanno portato a questo, a questa stagione così deludente, fermo restando che ci sono poi ancora le finali di Coppa del Mondo che possono regalargli un briciolo di soddisfazione in più, anche se credo sarà difficile poi recuperare da questa delusione. Ecco, la cosa che sorprende è che Giuliano Razzoli è la persona più serena del mondo, possiamo dire così. Nel nella vittoria sì, come nella non vittoria, nella sconfitta. Beato sì, lui. Esatto, nel senso che sì, beato lui, ma credo che lui abbia trovato la giusta filosofia di affrontare le gare. È vero, lui è diventato lo scorso anno campione olimpico e la sua vita da lì è cambiata molto. Però anche oggi al traguardo ha detto: io so che cosa ho fatto, i sacrifici che ho fatto per arrivare fino qua, e so benissimo come sono arrivato a questa stagione invernale. Non dimentichiamo che lui quest'estate in Argentina si è infortunato alla mano e questo infortunio, che ha comportato poi anche un'operazione, l'ha tenuto fermo un mese. Quindi lui già in conferenza stampa aveva detto: io non sono in forma come ero l'anno scorso all'Olimpiade, ho bisogno ancora di un po' di tempo per ritrovare quello stato di forma che mi aveva permesso di vincere l'oro. Quindi ci sono in gara, ho già fatto il mio primo podio finalmente in questa stagione che è arrivato a Kitzbühel, però la mia condizione non è al 100%. Quello che è successo oggi in gara è un episodio, cioè quello che può succedere in una gara dove cerchi di dare il massimo. Nella prima manche ha fatto fatica, ha detto di non aver mai trovato il ritmo, la pista era un po' segnata, lui col pettorale con cui partiva ha trovato forse quella via di mezzo, quando incomincia a segnare però non è ancora completamente non si è ancora completamente creata quella vaschetta sulla quale magari appoggiarsi, quindi aveva finito 11esimo, distanziato di oltre un secondo. Nella seconda manche stava dando il massimo, lui ha detto, lui pensate al 47 di piede, di scarpone, e questa è una condizione un po' particolare, perché nel momento in cui lui si inclina anche solo di poco, lo scarpone tocca immediatamente, quello è quello che è successo oggi. Anche il tecnico Teoli ha detto: succede, stava tirando, è uscito, ma il nostro Giuliano Razzoli c'è, è uno slalomista di alto livello, dategli solo il tempo di ritornare e di fare una preparazione dall'inizio alla fine come si deve, sarà di nuovo fra i più grandi al mondo. Elisa, bilancio di questa spedizione maschile lì a Garmisch: abbiamo preso medaglie grazie a Dean Rofer, ma non solo, in slalom, in libera, in super combinata, in super gigante, abbiamo mancato di fatto soltanto in gigante, è lì che si deve lavorare soprattutto, vero? Sì, assolutamente, infatti la spedizione azzurra maschile ha raccolto molto più di quello che si poteva anche solo immaginare, con le tre medaglie di Nerofer, il bronzo anche di Phil in combinata e questo bronzo nello slalom, ha fatto sì che la spedizione possa essere definita assolutamente vincente. Il grosso buco nero in questo momento è lo slalom gigante, ma già durante la stagione ci sono state più volte delle discussioni con i tecnici per capire che cosa manchi ad una squadra che fino a un paio di anni fa era una delle squadre più forti al mondo, perché i nostri Simoncelli, Mölge e Blardone si imponevano nelle gare di Coppa del Mondo, poi magari mancavano gli appuntamenti importanti, però in Coppa del Mondo eravamo sempre fra i migliori. Invece quest'anno hanno raccolto solo un terzo posto di Massimiliano Blardone e in tutte le altre gare hanno fatto molto fatica, hanno fatto fatica anche in Badia, che per noi era la gara dove abbiamo sempre primeggiato. Quindi c'è davvero un problema che bisogna affrontare. Il tecnico Ravetto, il direttore tecnico, ne è consapevole c'è una squadra da ricostruire, forse è il momento anche di puntare un po' di più sui giovani. C'è un Borsotti che comunque è venuto qui, ha fatto la gara di slalom gigante e ha cercato di difendersi. Lui è un ragazzo giovane e può essere uno degli atleti che può in futuro riscattare un po', forse anche una squadra che è arrivata, che ha chiuso un po' un ciclo, no? Dei tanti anni, sono 10 anni che questi ragazzi gareggiano in Coppa del Mondo, forse è giusto che anche loro magari abbiano avuto questa flessione e si cerchi invece di puntare su qualche atleta più giovane pronto ad inserirsi fra i migliori. Speriamo di avere dei risultati già dalle prossime gare di Coppa del Mondo. Ora traffico, poi torniamo in diretta dal Beat a Milano, ma anche da Garmisch per i mondiali di sci. Effetto neve. Effetto neve. In diretta dalla Beat, le 16:46 minuti, ancora una buona domenica, seconda parte del nostro effetto neve, sempre dedicata ai mondiali di sci che si sono conclusi a Garmisch-Partenkirchen con il numero record di medaglie azzurre nella storia dei mondiali, perché oggi con il bronzo in speciale di Manfred Mölg abbiamo colto il 6° podio nella manifestazione, un risultato che fa il pari soltanto alla grande edizione di Sestrier 1997, quando vincemmo 6 mondiali, in quel caso però 3 furono gli ori, ci fu un argento e 2 bronzi. Va detto che però in quella edizione dei mondiali sfoggiavamo alcune punte di diamante che si chiamavano Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Ghedina ed Alberto Tomba, e chissà che Federica Brignone, l'unica azzurra che torna a casa da Garmisch con una medaglia, non possa arrivare anche lei a quei livelli. Non a caso abbiamo nominato Isolde Kostner e la grandissima Deborah Compagnoni. Ti piacerebbe, Federica, arrivare sì, a quei risultati? Buon Madonna, pomeriggio. Mi piacerebbe tantissimo, se mi sogno veramente. Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio Federica Brignone, innanzitutto complimenti per quello che hai fatto a Garmisch, per le emozioni che ci hai regalato. Come va? Grazie, ti sei svegliata dal sogno? Sì, mi sono svegliata, ma adesso sono stanchissima, ho passato 3 giorni abbastanza duri, perché ho avuto ancora una gara, lo slalom, che vabbè, ho inforcato, ho pazienza. E poi ho guardato la gara di Manfred con la sorella, con Manuela, e è stato emozionante vedere un'altra medaglia in diretta. E poi niente, comunque sono stati 3 giorni duri, ho fatto fatica a dormire per l'emozione ancora, e quindi niente, è stato bellissimo. Allora Federica, qui con me, seppure soltanto virtualmente purtroppo, ci sono Elisa Calcamuggi, inviata di Sky Sport, e Gianmario Bonzi, che ha raccontato le tue imprese in diretta su Eurosport. Diamo il buon pomeriggio e il benvenuto a Gianmario. Ciao, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Gianmario, allora domanda per Federica, che può stare con noi qualche minuto, e quindi vogliamo, insomma, anche grazie al tuo contributo e a quello di Elisa, conoscere qualcosa di più della grande protagonista della squadra azzurra ai mondiali. A te Gianmario. Ma intanto le faccio i complimenti per le emozioni che ci ha regalato. Più che una domanda, guarda, sono contento di una cosa, perché adesso i programmi sono cambiati, andrò ad ore e parteciperà anche alla Super Combinata, quindi con questa Super Combinata fra poco in Coppa del Mondo avrà partecipato a tutte e 5 le specialità nella stessa stagione a 20 anni in Coppa del Mondo, ed è una cosa che non si era mai verificata in Italia, e quindi sono felicissimo per questo. E le chiedo però anche quanta fatica bisogna fare per gareggiare in tutte le discipline dal punto di vista fisico. Ecco, io penso che gareggiare in tutte le discipline come fanno una Von e una Risch sia una cosa veramente, veramente difficile. Ce la fanno quei due, si può dire, Marcantoni della Von e della Risch, perché fisicamente sono fortissime, hanno molta più esperienza di me. Io non ho partecipato a tutte le gare, però probabilmente, cioè, come hai detto tu, a questo punto partirò in tutte le discipline quest'anno, è una cosa fantastica, è il mio, diciamo, obiettivo a lungo termine. E però credo che per essere a alti livelli in tutte le discipline, oltre che essere dei talenti mostruosi, bisogna avere una preparazione atletica, mentale e sciistica non indifferente, ecco. E poi, come ci avevi detto qualche settimana fa, 2 settimane fa, prima di partire per Garmisch, bisogna essere bravi a farsi scivolare addosso la grande responsabilità, no, che ti arriva in certi momenti. Come ci sei riuscita a Garmisch? Sinceramente, se mi avessero chiesto 2 o 3 giorni prima ma se fossi sul podio dopo la prima manche cosa faresti? Io avrei risposto, beh, avrei una paura, avrei tantissima paura prima della seconda, della seconda manche. E invece stranamente l'altro giorno, essendo seconda dopo la prima manche, non avevo il minimo, non avevo la minima preoccupazione, sono riuscita a rimanere tranquilla grazie anche alle mie compagne di squadra, ed ero sicura di me stessa, non so come, anche perché sapevo che la pista avrebbe mollato, sapevo che sbatteva, sapevo che era difficile comunque mantenere la posizione, però sono riuscita a mantenere la calma, a stare serena e comunque a divertirmi, ed è andata bene alla fine. Questo, sono riuscita a zerare tutto, come a ripartire da zero, come fare un'altra una nuova prima manche, e credo che sia stata la cosa più importante quel giorno lì. Elisa Calcamuggi. Sì, io volevo chiedere una cosa a Federica. Lei qui è la più giovane medagliata, è del 1990, e due settimane prima di arrivare poi a conquistare la sua medaglia, lei aveva detto: io parto, vado al mondiale per un per vincere una medaglia. E a me stupisce sempre questo suo modo così deciso, così vincente di affrontare le situazioni. Ogni tanto viene anche criticata per questo, perché un po' dicono: ma guarda, questa a che cosa punta, incominci, deve incominciare a vincere in Coppa del Mondo, poi si vedrà. Quindi volevo chiedere a lei questo, il suo lato del carattere, che forse è il suo punto forte, ma che magari le crea anche in squadra qualche critica. Io credo che noi atleti che partecipiamo al mondiale siamo tutti uguali, perché se siamo arrivati in Coppa del Mondo e se siamo qualificati per un mondiale, perché più o meno abbiamo tutti la stessa testa, diciamo. Però se qualcuno non ha il coraggio di dire quello che vorrebbe fare, non lo so, io purtroppo sono così, dico sempre quello che penso, e ovviamente arrivare a un mondiale anche non da favoriti o come ero io, comunque con solo un podio alle spalle, e non puntare al podio, cosa fai? Al mondiale tutti, anche quello che parte col 30 secondo me deve puntare al podio, le posizioni che contano sono le prime tre e non hai niente da perdere, quindi se non provi ad arrivare sul podio, cosa vai in mondiale a fare? Almeno io la penso così. Federica, invece io faccio un'altra piccola curiosità, molto più profana, diciamo, dal punto di vista tecnico. Cercando su Google, scrivendo il tuo nome, sai che c'è il completamento automatico. Se scrivi Federica, il primo nome che esce non è quello Federica Pellegrini, ma Federica Brignone. Quindi in questo momento si può dire che sei la Federica più famosa d'Italia. Almeno su internet. Ma io direi che non c'è paragone tra me e la Pellegrini. Lei ha vinto delle medaglie olimpiche e molte più medaglie di me sicuramente, quindi se internet si sbaglia è perché magari la P viene più prima della P, forse solo per quello. Complimenti allora, Federica. Bravissima, complimenti a Federica Brignone anche con questa risposta. Insomma, si sente la classe della campionessa. In bocca al lupo per le restanti gare della stagione e ci risentiamo presto. Complimenti davvero e un abbraccio. Per concludere, una battuta da Gianmario Bonzi. Gianmario, il resto della stagione per quanto riguarda il settore femminile in 15 secondi cosa propone per l'Italia soprattutto? Beh, adesso avremo ancora quattro tappe, quelle di Ore, Tarvisio, Spindler, Rublin e le finali di Landside. Con questo spirito possiamo aspettarci molto. Certamente manca la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo, in realtà mancherà quasi due anni e mezzo la vittoria in Coppa del Mondo, quindi vogliamo aspettarci una vittoria. E ce l'auguriamo davvero. Grazie a Gianmario Bonzi, inviato di Eurosport, che ci ha tenuto compagnia da Garmisch-Partenkirchen. Buon lavoro Gianmario, prestissimo. Grazie mille a voi, buona serata. E grazie anche Elisa Calcamuggi. Elisa, ci ritroviamo domenica prossima ancora con grandi ospiti qui su Radio 24 a Effetto Neve. Buon lavoro Elisa e buon rientro da Garmisch. Grazie, buona serata a tutti. E allora dalla BIT, la borsa del turismo qui alla Fiera di Milano, è tutto. Io ringrazio ancora Paolo Corleoni, Valeria Bernardi, Giorgio De Luca, Claudio Carusi e tutta la squadra di Radio 24 che ha lavorato per quattro giorni qui dalla BIT, ottenendo un grande risultato, come si dice, di pubblico ma anche di critica. Adesso la linea per le altre notizie sportive, il calcio, soprattutto a Carlo Genta. Effetto Neve torna tra sette giorni. Ciao! Eni vi ha presentato Effetto Neve. Effetto Neve.